Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi va a indagare questo libro, Nive Veroni, quasi un'autobiografia, ed è fatto a sei mani con Lucio Levrini, Laura Testi e Marta Garosi, e racconta più voci della storia straordinaria di Nive Veroni, che è partita da una casa popolare di Mandrio di Correggio, dove era nata nel 24, ha fatto il giro d'Italia dal sud al centro per tornare poi nella sua provincia di origine, ricoprendo importanti ruoli nel mondo associativo, istituzionale e politico, e incrociandosi poi con Lapidi, Carlo Pagliarini, l'Associazione Pioniere Italia. Questo tutto nell'intervista a seguire con Morena Moretti, con Laura Testi. Laura Testi, tu sei coautrice di un libro su Nive Veroni. Nive Veroni, una donna che ha svolto un'attività incredibile durante la sua vita, dedicata prevalentemente agli altri. Il titolo è Nive Veroni, quasi un'autobiografia, cioè questo quasi che pone delle domande. Perché quasi un'autobiografia su Nive? Allora, siamo tre curatori, due curatrici e un curatore, Lucio Levrini, Marta Garosi e io. Quasi un'autobiografia perché l'abbiamo scritto noi, abbiamo cercato noi le fonti e delle testimonianze, però di fatto ci siamo avvalsi di tanto, tanto materiale che Nive ha per fortuna lasciato, materiale di stato di un grande interesse, oltre a quelle interviste e scritti che ha fatto per pubblicazioni varie, ha lasciato negli ultimi anni della sua vita tre quadernini molto, molto densi di pensieri, di riflessioni, e anche in questi quaderni ha ripercorso la sua stessa vita, volendo dare lei testimonianza delle attività che aveva fatto. Quindi quasi un'autobiografia perché l'abbiamo scritta noi, del quasi, ma quasi è un'autobiografia perché il materiale è soprattutto attinto da lei, e sono proprio le sue parole. Laura, ci fai un quadro allora della vita di Nive e della personalità di questa donna che voi ritenete straordinaria? Posso partire proprio da questo, da come l'abbiamo vista noi, una donna straordinaria e anche con una vita straordinaria. C'è un passaggio in cui lei dice: non capisco perché mi debba sembrare la mia vita straordinaria quando la mia vita è stata così tribolata. Invece la sua vita è proprio stata straordinaria anche ai nostri occhi, per quello che ha saputo fare lei. Una donna straordinaria, come dicevi tu, molto tenace, ma anche umile, anche generosa. E lei che era così, così inquieta, così sempre attenta sulle cose, sempre timorosa di sbagliare, ed in effetti stata sempre capace di scelte coraggiose. Fino all'ultima sua scelta era così aperta al mondo che è diventata femminista con noi, di un pensiero radicale del femminismo, quello della differenza sessuale, che lei ha subito capito, ha subito fatto suo, forse perché l'ha anche riscattata da momenti molto difficili nelle relazioni, in certe relazioni. Basta pensare a quello che dice della sua esperienza a Roma, quando era funzionaria in quella direzione maschilista, verticistica, in cui lei non si trovava. Lei era forse femminista per natura. Quindi funzionaria del Partito Comunista subito dopo la guerra e viene mandata a Roma. Sì. Qui chiaramente ci sono molte difficoltà, poi infatti lei rientrerà a Correggio. E qui a Correggio, tra le altre esperienze, perché lei ha avuto anche le esperienze istituzionali, fa questa esperienza nell'associazione Pionieri d'Italia. Tu l'hai conosciuta tra l'altro in quell'occasione. Proprio, io l'ho conosciuta quando avevo una decina d'anni, lei è di 20 anni più di me, lei era nata nel 24 e io del 44, nel 44, e l'ho conosciuta proprio in quando lei è venuta, quindi intorno a lei è rientrata nel 54, quindi giusto in quegli anni lì. Mi ha fatto una grande impressione quando, non l'ho scritto nel libro, quando l'ho incontrata, perché ero un po' insolita rispetto alle donne che conoscevo io. Io sono cresciuta in una casa popolare, c'erano la sera in casa mia le riunioni della cellula, del PC, i compagni che parlavano, ma le sue parole erano diverse da quelle che sentivo nelle riunioni cosiddette di partito. Lei era maestra, aveva fatto le magistrali a Reggio, aveva frequentato un'amica carissima, Marta Beltrami, cattolica, con cui sono avviate alla Resistenza, in aiuto alle Fiamme Verdi, cioè una persona molto aperta anche alle altre culture, alle altre sensibilità, diciamo così, e questo traspariva nel suo modo di fare, di pensare in quegli occhi verdi, diretti e sorridenti. Ecco, era una donna un po' diversa da quelle che frequentavo, che conoscevo. Mi ha molto interessato da subito, siamo diventate molto amiche, siamo rimaste amiche per quello che era, lei m'ha fatto crescere, diciamo così, con la sua generosità e la sua ampiezza di vedute, e siamo rimaste poi in contatto fino alla fine, proprio anche negli ultimi giorni della sua vita. I suoi quaderni sono arrivati a me per dire qual era la relazione che avevamo, ed era reciproca, anche lei mi voleva molto bene e io la stimavo, le volevo, insomma. Fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, o potrà arrivare a stare con noi. Siamo così. Giornate senza fine, silenzio, che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così Thank you. nel 54 viene, e questa, ecco, questa anche voglio dire, è stata l'esperienza più interessante della sua vita. Lei ne parla con entusiasmo, fa una cosa, fa un pezzo per un libro, e lei dice: anche l'esperienza dell'API mi emoziona sempre. Aveva trovato un po' tutto, aveva ritrovato se stesso un po' tutto. E poi soprattutto lei dice, c'è stato anche un grande contatto umano, è un rapporto umano molto forte con i dirigenti. Lei ha amato molti ragazzi con cui lavorava, ma anche con i dirigenti, con Antonio Dall'Aglio, Arnaldo Patacini, Giovanni Mariotti, quelli che costituivano la segreteria provinciale dell'API, e poi un grande rapporto con la direzione nazionale. Lei parla di Pagliarini come di un amico, parla di Rinaldi, che credo di aver conosciuto anch'io un giorno, che era venuta a Correggio in una passeggiata con Nive, e poi aveva una frequentazione quasi, quotidiana non si può dire, ma molto stretta anche con Loris Malaguzzi, che era correggese anche lui come Nive, e che anche lui ha fatto tanta attività per l'API. Quindi insomma lì si è trovata bene da tutti i punti di vista, perché vedeva i valori e l'entusiasmo dei primi anni del dopoguerra, quelli per cui lei si era iscritta al PC e aveva accettato di farla funzionaria entusiasticamente sempre, ecco, che poi invece aveva visto scemare andando strada facendo, e non aveva più ritrovato per esempio appunto a Roma, come si diceva prima. Ecco, con l'API ritrova quei valori, un senso, la voglia di fare un lavoro concreto che le piaceva tantissimo, e anche questi colleghi, compagni di attività e di attività. Ci sono delle lettere bellissime, di cui una copia vorrò dare anche all'archivio vostro. Sono 10 lettere che i dirigenti dell'API le scrivono dal campeggio di Valcamonica, dove lei non era potuta andare perché non stava bene quell'estate. È quasi un diario giornaliero, e lì, attraverso queste lettere, perché proprio danno conto di quello che fanno, le ricerche, le gite, la mostra, il periodico che fanno, il giornale murale, tutte queste robe, si vede non solo la vita del campeggio, che è comunque un momento importantissimo dell'attività dell'API, per me è stata un'esperienza straordinaria e unica, ma attraverso quelle cose si legge proprio chi erano questi giovani dirigenti. Questi dirigenti che le scrivono, che conducevano il campeggio, avevano dai 16 ai 20 anni, quindi erano i pionieri, gli ex pionieri, hanno fatto quell'esperienza ed erano diventati dirigenti, e poi Dall'Aglio naturalmente, eccetera. Loro le scrivono proprio quotidianamente, con affetto, interessandosi di come stava lei, ma anche con scrupolo, perché lei non perdesse neanche un momento della vita di campo. Ecco, è una documentazione molto molto importante, secondo me, perché è l'attività che si faceva al campeggio, ma è lo spirito che si viveva dentro l'associazione. Te li farò avere. Grazie. Comunque la pratica della pedagogia, questo è forse un elemento che ha comunato tutti questi dirigenti di cui tu parli, e questo forse è stata come esperienza straordinaria, una sorta di pedagogia applicata che in quegli anni… E con una frequentazione di questi altri pedagogisti, Ada Marchesini Gobetti, Gianni Rodari, Dina, come se fossero amici, Lucio Lombardo la dice, tutte persone venute a Correggio, sembra che Rodari abbia inventato, creato Cipollino nelle nostre campagne, l'Ada Marchesini Gobetti è venuto in ricordo come quello che mi ha trasmesso come donna. Un episodio solo: io ho portato un mazzo di fiori alla fine come giovane pioniera, sempre di te, a lei, e me la ricordo benissimo. Ho visto una fotografia io stessa portare un mazzo di garofani a Berlinguer e non me la ricordo. Questo perché? Perché la Nive era stata tramite fra me e la Ada Marchesini Gobetti, sicuramente mi aveva preparato e stimolato a questo incontro, perché capisse l'importanza di questa cosa non banale. Lei c'era sempre, insomma, con quel suo grande spirito e capacità di unire le persone adulte, i bambini, e far capire le cose. È una donna straordinaria. aveva poi un rapporto con l'universo che non ti dico, per cui è stata lei che ci ha fatto conoscere Ipazia ed Alessandra come ragazze, come donne del nostro gruppo di Sfare Fare, insomma, di cui sarebbe bello parlare, però per dire anche questo, l'universo, la pace, erano tutte le cose che si vivevano all'interno dell'Api, con tanta intelligenza, apertura e grandi valori di riferimento. Sarebbe molto attuale ancora questa pedagogia. Fine del mese, il 30 aprile, sono aperte al pubblico la mostra e le attività laboratoriali legate al nuovo fumetto per bambini. Il nome è Elsa Morandi e l'uovo verde di Sara Mazzetti. Questo negli spazi di Casa Morandi, in via Fondata 36 a Bologna, e nel Dipartimento Educativo Mambo in via Don Menzoni 14. Qui sono esposti gli originali di Elsa Morandi e l'uovo verde, insieme a diversi materiali preparatori. Il volume è edito e la mostra è curata da Canicola APS. Quindi il fumetto gioca con la cultura alta, quella del grande pittore bolognese. Per sapere come una bimba entra nella vita del pittore all'interno della graphic novel, abbiamo sentito con Rachele Copparoni l'autrice Sara Mazzetti. E a seguire sentiremo anche l'editrice di questo volume, Liliana Cupido. Sono qui a Casa Morandi con Sara Mazzetti per presentare la sua nuova esposizione, tra l'altro doppia esposizione qui a Bologna, poi ne parleremo, ma innanzitutto il titolo è Elsa Morandi e l'uovo verde. Cosa si nasconde dietro questo titolo? È un libro, un fumetto per bambini edito da Canicola e al centro c'è la figura di Giorgio Morandi, appunto. Diciamo che è un Giorgio Morandi la cui routine, la cui vita molto tranquilla viene un po' sovvertita da una bambina che si chiama Elsa, che appunto si introduce in maniera abbastanza irruenta nella sua vita e sconvolge un po' le abitudini di Morandi e un po' il mondo di Morandi, perché vuole diventare una pittrice. Diciamo che la chiave è questa. Hai giocato con dei linguaggi molto particolari, diversi tra di loro all'interno appunto di questo fumetto. C'è la grafica, c'è l'illustrazione, c'è la fotografia. Come mai questa scelta e come hai tenuto poi tutto insieme? La scelta è stata un po', insomma, ci sono arrivata un po' un passo alla volta, nel senso che mi serviva appunto un modo di disegnare, di fare questo libro che funzionasse con la figura di Morandi, ed è stato abbastanza appunto difficile all'inizio trovarsi di fronte a una figura di un pittore così grande e dover fare un lavoro visivo su di lui. Quindi da un lato appunto nel fumetto ci sono delle parti disegnate, delle parti fotografate, delle parti anche fatte in 3D che in qualche modo hanno creato un universo che al mio occhio funzionava e è arrivato un po' alla volta sperimentando diverse soluzioni, diciamo. Anche la stessa faccia di Morandi è nata così? Sì, la faccia di Morandi è un accrocchio di parti della faccia di Morandi, diciamo, presa da una fotografia di Liszt molto famosa e un po' ricomposte, appunto anche perché disegnare le facce, fare i ritratti per me è sempre molto complesso, quindi ho trovato questa soluzione. Dicevamo un doppio spazio espositivo sia qua a Casa Morandi che al Mambo, dove tra l'altro ci saranno anche dei laboratori. Sì, c'è un laboratorio qua in Casa Morandi e uno al Mambo che sarà il 30 aprile, che è il giorno di finissage delle mostre, sì. Grazie mille. Grazie. Dopo una chiacchierata con l'autrice Sara Mazzetti, passiamo all'editrice Liliana Cupido, buongiorno. Buongiorno a tutte e tutti. Allora, siamo qui appunto per parlare di Elsa Morandi, l'uovo verde. Volevo chiedere com'è nato innanzitutto questo progetto così particolare, ecco. Sì, allora l'idea nasce in coerenza con un progetto che si chiama Teatro di Natura, libro e mostre, eventi culturali, incontri, laboratori legati appunto alla figura di Ulisse Aldrovandi, protagonista di una storia a fumetti realizzata da Michelangelo Setola, da cui poi sono dipartite una serie di attività. Nel momento in cui abbiamo appunto realizzato Teatro di Natura e abbiamo visto come un libro, una storia a fumetti possa far rivivere una figura, un personaggio storico importante per il territorio, abbiamo pensato a quale altra figura potesse essere allo stesso modo valorizzata e in qualche modo riportata in vita attraverso un canale che è quello poi narrativo. E da lì ci è venuto in mente Giorgio Morandi, grande pittore, incisore, maestro del Novecento, anche per il legame che noi portiamo avanti con il Mambo da diversi anni, da quando è nato il progetto Canicola Bambini. Nel momento in cui abbiamo capito che era Giorgio Morandi quello su cui noi ci volevamo concentrare, immediatamente la scelta di Sara Mazzetti come autrice perfetta per la realizzazione di un progetto del genere è arrivata da sé. Con Sara avevamo realizzato il libro I gioielli di Elsa nel 2017 e in generale, pensando alla sua alta professionalità, competenza,